c'è molta propaganda in questo progetto di legge, molto, è uno strumento di distrazione di massa rispetto a quello che sta sui veri problemi del paese, e soprattutto il governo lo sta usando anche come clava in qualche modo contro le richieste assolutamente legittime di riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno, quindi viene usato come strumento per non discutere del problema reale, cioè quello di riconoscere i diritti dei bambini e fare in modo di evitare di avere bambini di serie A e bambini di serie B nel nostro paese. Detto questo, il progetto di legge è propagandistico, ma comunque è molto pericoloso, diciamo così, oltre a un inasprimento delle attuali pene, perché che già esistono, perché ricordiamo la gestazione per altri in Italia è già vietata ed è già, ad esempio, la richiesta di passare €1.000.000 di multa semplicemente un raddoppio dell'attuale multa, che è fino a €500.000, quindi è anche, insomma, quindi è un inasprimento delle pene in essere. Poi soprattutto c'è questa cosa molto molto fantasiosa del reato universale, che è un qualcosa che, diciamo, non appartiene molto al diritto di una democrazia, nel senso che nel nostro paese, ad esempio, il reato, l'unico quasi reato universale, che però ha molte, anche qui, molte difficoltà a essere applicato, è il genocidio. Per farci capire, nemmeno l'omicidio è un reato universale nel nostro paese. Se uno ammazza qualcuno in un altro paese, per la Repubblica Italiana non ha commesso nessun reato. Quindi, diciamo, il fatto che si decida di fare questo tipo di azione su questa specifica fattispecie è indicativo di quanta propaganda ci sia dietro questa proposta del governo. A proposito di propaganda, secondo le stime, insomma, in Italia sono 250 le coppie che ogni anno fanno più o meno ricorso alla GPA, e soprattutto il 90% sono eterosessuali. Sì, assolutamente, infatti è per quello che dico anche che è uno strumento di distrazione, ma è chiaro che il governo comunque lo sta schiacciando in qualche modo quel 10%, quindi stiamo parlando di 25 coppie l'anno, eventualmente di persone omosessuali che ricorrono a gestazione per altri all'estero, tra l'altro che lo fanno in paesi in cui la gestazione è regolamentata, è legale, ha le tutele che prevedono ogni paese in base alla propria legislazione, quindi non commettono alcun reato. Quindi il fatto, questo accanimento è veramente assurdo e surreale. Dopodiché bisogna anche capire che cosa questo comporterebbe per il nostro paese, nel senso che il fatto che la Repubblica Italiana si arroghi il diritto di perseguire le persone ovunque facciano ricorso a questa pratica, anche nei paesi in cui è legale, può portare a delle situazioni decisamente imbarazzanti anche dal punto di vista delle relazioni diplomatiche internazionali nel nostro paese, perché è oggettivamente un problema molto molto problematico che l'Italia possa considerare un reato quello che in un altro paese è perfettamente lecito e legittimo e viene fatto secondo quello che prevede le leggi e il corpo legislativo di quell'altro paese. Banalmente, sono curioso di sapere cosa succederà la prossima volta che Nicole Kidman arriverà alla Mostra del Cinema di Venezia, visto che ha ricorso per due volte alla gestazione per altri, giusto per fare gli esempi, o quando lo farà Cristiano Ronaldo, verrà a giocare qualche partita nel nostro paese. Come si comporterà la Repubblica Italiana? Li arrestiamo in aeroporto? Cioè, quindi purtroppo questa propaganda del governo, presumo, è molto molto pericolosa, rischia di mettere in seria difficoltà il nostro paese, ben oltre forse quello che prevede la stessa onorevole Varchi. Sul suolo italiano invece si tratterebbe anche di strappare dei bambini alle famiglie in cui sono cresciuti? Questo è un'altra delle cose che non si è ben capito, perché certo si fa il reato, non si è ben capito, diciamo così, fortunatamente l'istituzione di leggi penali non è retroattiva, quindi diciamo le famiglie che attualmente magari hanno avuto figli facendo leva sulla gestazione per altri all'estero in paesi che è consentito non dovrebbero, tra virgolette dico dovrebbero, perché poi bisogna vedere il governo cosa scriverà, visto l'attuale furia ideologica con cui stanno facendo questo tipo di operazione, non dovrebbe avere problemi, potrebbe porsi per il futuro, per eventuali coppie che andranno a fare queste tecniche per il futuro. Resta però il problema che i bambini sono in qualche modo rischiano di essere le principali vittime incolpevoli, ammesso che ci sia una colpa, di questo provvedimento del governo, perché alla fine cosa faranno? Quindi se una coppia eventualmente fa comunque questa cosa dopo che viene approvata una legge di questo tipo, cosa si fa? Si arrestano i genitori, si strappa il bambino, lo si dà in adozione, viene ucciso, non lo so, dovrebbero specificarlo nella legge che cosa intendono fare, perché poi alla fine la realtà bussa alla porta, e la realtà sono la vita delle famiglie italiane, che sono tante e diverse, non sono più soltanto il modello di famiglia che ha in mente la ministra Roccella o in generale i membri del governo, e di fronte a questa realtà diciamo la risposta ideologica che sta dando il governo è veramente assurda.